Buonasera Chiesa, che bello essere insieme e vivere insieme quello che il Signore affida a noi. Questa mattina abbiamo tanto gioito e goduto dei battesimi e questa sera come nutrimento vogliamo andare intorno a quello che è l'amore di Dio per noi in maniera pratica, quello che io vivo e come io lo vivo. E vogliamo leggere dalla parola di Dio, però prima di leggere, permettetemi una parentesi, vabbè, questo non fa parte del tempo a mia disposizione. Questa mattina è accaduto un episodio un poco, cioè forse non ce ne siamo nemmeno accorti. È venuto il fratello Stefano per predicare, ha messo il suo bello iPad sul tavolo e mentre stava per iniziare si è visto in una frazione di secondo tutto il panico che si può vedere in una persona che si perde, perché dice non c'è più, era scomparso. E non sapeva quello che doveva fare, quello che doveva, dove doveva andare. Allora ho detto in cuor mio, grazie Signore. Perché è vero che lo chiamano touchscreen, ma è questa. Vedi, cioè con la Bibbia vera e propria, no, anche quella è vera. Vabbè, ma con quella cartacea tu usi tutti e cinque i sensi. È vero, usi l'udito perché si sente, tu lo sai, quando sfogli, lo senti che stai andando all'altra pagina. E poi la cosa più forte, l'olfato. L'odore della carta, specialmente quando è una Bibbia molto usata, invecchiata e sporcata, senti proprio l'odore. E poi anche il sapore si sente, è incredibile, perché ogni volta per girare che devi fare? E allora ne senti anche il sapore, è proprio, cioè è completa, l'ha visto tutto. Allora, però io uso anche l'altro, anch'io me ne vado in panico, però ogni tanto, anche con l'iPhone, ogni tanto io, però poi mi accorgo che non è così che si fa, e allora devi fare diverso, ma vale lo stesso bene, importante che usiamo la parola di Dio. Ma ritorniamo al nostro soggetto. Dio ci ama, sapete come ci ama? Certo che l'amore di Dio è la sua grazia perché ci ha salvati, certo, certo, certo che l'amore di Dio è per le guarigioni che abbiamo avuto e se io chiedessi una testimonianza, tanti di noi potrebbero dare una testimonianza di come Gesù li ha guariti, li ha sanati e ha fasciato i cuori rotti. Certo che questo è l'amore immenso di Dio sparso verso di noi, ma l'amore che di Dio che io tocco ogni giorno e ogni momento è la nuova opportunità che Dio mi dà in ogni situazione. Lui mi dà sempre una nuova opportunità e vogliamo leggere dalla parola di Dio l'opportunità di Dio. Però prima che leggiamo, vi voglio, perché ha bisogno di un poco di presentazione, il libro che andiamo a leggere è Lamentazioni. Ecco, già il lamento è sul nostro, quindi si capisce, già ed è proprio, se l'andate, io non credo che questo è un libro che viene molto letto, perché? Perché è un lamento. Io vi leggo alcune cose dal capitolo 3 che noi andremo a leggere una parte dopo, io vi leggo alcuni passaggi, vedete quello che dice il profeta che lo ha scritto sotto ispirazione di Dio. Vediamo solo alcuni passi, ma già capite, questo è sempre il capitolo 3, dice Egli ha consumato la mia carne, verso 4, verso 5, ha costruito contro di me e mi ha circondato di veleno e di affanno. Sì, mi ha fatto abitare in luogo tenebroso. 7, mi ha circondato di un muro perché non esca. 8, anche quando grido e chiamo aiuto, egli chiude l'accesso alle mie preghiere. 9, egli mi ha sbarrato la via con blocchi di pietra, come hanno fatto qui a Modugno, no? Così, 12, ha teso il suo arco, 13, mi ha fatto penetrare nelle frecce, io sono diventato uno scherno, egli mi ha saziato di amarezza, mi ha spezzato i denti. Poverino, tutto a lui, tutto, è incredibile, E poi a un certo punto, perché questa è la parola di Dio, è reale, e questo è reale, quante volte noi viviamo queste cose? Quante volte questi sentimenti sono dentro di noi perché stiamo vivendo una situazione, perché stiamo affrontando qualcosa e viviamo proprio queste cose, ci sentiamo circondati, ci sentiamo non ascoltati da Dio, gridiamo a Dio e Lui non ci risponde. Noi viviamo proprio questo, però... Quello che poi dice il profeta è dal verso 22, anche il 21. Ecco, il 21 dice, ecco ciò che voglio richiamare alla mente, ciò che mi fa sperare. Ascoltate il 22. È una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti. E le sue compassioni, infatti, non sono esaurite, si rinnovano ogni mattina. Grande è la tua fedeltà. Il Signore è la mia parte. Io dico, perciò spererò in Lui. Il Signore è buono con quelli che sperano in Lui, con chi lo cerca. È bene aspettare in silenzio la salvezza del Signore. Dio rinnova le sue opportunità ogni giorno e in ogni situazione per noi, per me. Ogni volta non dà l'alternativa, dà l'opportunità, è molto diversa. Un'alternativa è, vediamo, se io faccio un salto in alto con all'asta, no, che c'è l'asticella, avere e non riesco, avere un'alternativa a quello qual è? A girare l'asta oppure abbassare l'asta. Quella è un'alternativa, ma Dio dà un'opportunità a noi, dà una seconda, una terza, una quarta, una infinita opportunità in tutte le situazioni che noi viviamo. E qual è? Lui inizia sempre dalle capacità. Tu sei capace di saltare, tu sei capace di saltare, perciò l'allenamento, allenati, non si salta senza allenamento. Non si salta senza allenamento. E poi ripeti il salto. Ecco l'opportunità di Dio. Ora noi ci serviremo, e voi mi perdonerete perché dice, ma sembra la stessa, sì, sembra la stessa maniera, perché io così imparo. Noi andremo a vedere, a toccare alcuni personaggi, alcune storie della Bibbia, perché sono questi personaggi che sono reali e vivi nella parola di Dio, che hanno vissuto situazioni, che hanno affrontato situazioni e che insegnano a me, a te, a noi, a come affrontare le nostre situazioni. Dentro c'è tutto il consiglio di Dio. L'opportunità di Dio per te è quando tu leggi la Bibbia e senti che il Signore ti sta parlando, quella è la sua opportunità. Quando sei qui e ascolti un canto e sai che ti sta toccando, quella è l'opportunità di Dio, non te la fare sfuggire, non te la fare sfuggire. Ascolti questa sera la sua parola e qualcosa ti tocca in maniera particolare. Quella è l'opportunità di Dio per me, per te. Non te la fare sfuggire, perché il Signore ci circonda. È scritto, come era scritto? Le sue compassioni, infatti, non sono esaurite, si rinnovano ogni mattina, si rinnovano sempre. Il Signore non si stanca, il Signore non dice di nuovo questo, è di nuovo Lui, non si stanca. Lui rinnova le sue compassioni, rinnova le sue promesse. Ecco, le promesse di Dio sono l'opportunità di Dio per me e io le devo afferrare. Ma andiamo a vedere alcuni esempi, come ho detto, per vedere nella pratica l'amore di Dio che si riversa dentro di noi con le opportunità che ci dà. Elia. Ora, forse non tutti conosciamo la storia di questo grande profeta del Vecchio Testamento. Elia, un grande profeta di Dio, ha ristabilito Israele, ha fatto un sacco di cose. A un certo punto, ecco, vi racconto un po' la storia per poi andare a leggere quel passo in maniera particolare. A un certo punto si sentiva completamente solo e abbandonato, perché tutti quanti servivano altri dei, tutti quanti andavano dietro alle statue, tutti quanti andavano. E lui nella potenza e nell'autorità di Dio ha sfidato tutti gli altri sul Monte Carmel, per chi ha letto la storia, e ha fatto scendere del fuoco dal cielo per bruciare l'olocausto, cosa che gli altri non sono riusciti. Beh, dopo che è accaduto questo, tutti i falsi profeti sono stati annientati, sono stati distrutti. Però a questo punto Izebel, la moglie del re, che seguiva tutti questi dei, si è arrabbiata di brutto e ha detto: no, tu non la scampi liscia, perché io ti seguirò ovunque ti vai a nascondere e ti distruggerò. A questo punto Elia è scappato, ha preso il suo servo e se n'è andato in un'altra città. In questa città ha detto al suo servo: rimani qua, perché è troppo pericoloso. E lui si è inoltrato un giorno di cammino nel deserto per trovare scampo. E lì, dopo un giorno nel deserto, era distrutto e non ce la faceva più. Si è accasciato e stava lì e ha chiesto proprio al Signore: fammi morire. Alzi la sua mano chi non l'ha mai pensato una volta in vita sua. Meglio morire a questo punto, anche se non lo pensi veramente, anche se non lo credi veramente, però ti viene in certe situazioni. E lì il Signore ha mandato un angelo. E io voglio chiedere: quanti di noi hanno incontrato un angelo? E io penso molti, se non tutti noi, almeno una volta abbiamo incontrato un angelo nella nostra vita, che è stata quella opportunità che Dio ci ha dato di venire fuori da quella situazione. E poi è venuta la parola del Signore e lo ha incoraggiato. Come lo ha incoraggiato? Lo ha fatto mangiare e rimangiare. Quello si addormentava, dice: no, alzati, vieni, c'è la focaccia, mangia la focaccia, rinforzati perché devi camminare. E da quello, da averlo fatto mangiare tutta la notte perché gli continuava a fare focacce, il giorno dopo ha detto: beh, mo pedala, e non aveva la bicicletta. 40 giorni e 40 notti di cammino. E dove è andato? Dove lo ha portato il Signore? Sapete dove l'ha portato? Al monte Sion. E il monte Sion è la presenza di Dio, è laddove Dio risiede simbolicamente, lo ha portato lì. Il Signore ci porta sempre alla sua presenza, importante vederlo. Vedete, e che cosa è successo a questo punto? Semmai lo leggiamo quello che è accaduto a questo punto, nel capitolo 19 di 1 Re, al verso 11, credo, sì, ecco. Allora, dopo tutta questa storia che vi ho raccontato, allora accade questo. Dio gli disse, va fuori e fermati sul monte davanti al Signore. E il Signore passò. Conosciamo tutti questo, almeno la gran parte di noi conosce questo passaggio. Un vento forte, impetuoso, schiantava i monti e spezzava le rocce davanti al Signore. Ma il Signore non era nel vento. E dopo il vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. E dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. E dopo il fuoco un suono dolce e sommesso. Quando Elia lo udì, si coprì la faccia con il mantello, andò fuori e si fermò all'ingresso della spelonca e una voce giunse a lui e disse: che fai qui, Elia? E vabbè, e poi continua la storia e poi gli spiega che cosa doveva fare Elia. Vedete, Elia senza speranza, senza veramente nessuna prospettiva per il futuro, perché la morte gli era davanti, cerca il Signore, ubbidisce, va prima nel deserto e poi fa 40 giorni di cammino per andare dove il Signore gli diceva, lo cerca. E quando il Signore gli parla, dice, ecco, adesso è la soluzione. E noi vogliamo quel tipo di soluzione. Un vento impetuoso che spazza via i monti. Quante volte abbiamo pregato così? Signore, togli via da me. Molte volte l'abbiamo fatto pur con le persone, no? Signore, lo diciamo, Signore, lo benedico. Ma in realtà vuol dire scopalo via, va bene? Non era lì il Signore. Non era lì. Il Signore non è nelle manifestazioni potenti che noi cerchiamo sempre, sempre, sempre il miracolo. Vogliamo vivere di miracolo in miracolo. Il Signore non era nel fuoco potente. Vi ricordate Giacomo e Giovanni? Signore, vuoi che preghiamo e facciamo scendere fuoco e fiamma dal cielo per distruggere tutti questi? Anche i discepoli. Quindi noi non siamo dissimili. Dove ha riconosciuto il Signore Elia? Nel dolce suono. Che cos'è il dolce suono? Non lo so. So solo una cosa, che quando Elia ha sentito il dolce suono, ha capito che Dio gli stava parlando. Ti può passare davanti tutto, ma tu lo avverti quando Dio ti sta parlando e ti sta indicando la via che devi fare. E infatti dopo gli ha detto, e non è che gli ha detto tante belle cose, gli ha detto vai in Siria, nomina un re, poi vai in Israele, nomina l'altro re, poi addirittura gli ha detto vai e nomina un profeta al posto tuo. Doveva perdere pure il posto, ma in quello era la soluzione di Dio per tutta quella situazione. Incontra Dio e ascolta la sua voce e fai quello che lui ti dice, perché lui ti porta passo passo, senza che ti rendi conto, a quella che è la sua volontà. L'opportunità che ti dà è il suggerimento della sua volontà. Ora, il suggerimento della sua volontà può essere anche contrario a quello che è il mio desiderio, a quello che è la tua aspettativa, a quello che aspiri più di ogni altra cosa. Ma In quello è la salvezza. Ma prendiamo un altro esempio, forse ancora per me è l'esempio più forte, anche conosciamo tutti quanti queste, perché c'è la famosa frase che poi viene ripetuta anche come un detto comune: chi è senza peccato scagli per primo la pietra. La donna adultera. Praticamente degli uomini, delle persone ben pensanti, avevano scoperto e trovato in flagrante fatto, come dire, questa donna che commetteva adulterio. Ora allora c'era la legge che chi commetteva adulterio doveva essere lapidato, però io mi sono sempre chiesto, ma lei per commettere adulterio con chi lo faceva? Con un uomo. È vero? È l'uomo dovere. Era un poco una società maschilista, che la donna non veniva e quindi poteva essere lapidata, ma questa è un'altra cosa. Allora, ma questa donna, è scritto in Giovanni al capitolo 8, la storia di questa donna peccatrice, la portarono davanti a Gesù, ma non tanto perché volevano che Gesù la giudicasse, ma quanto per mettere alla prova Gesù. E allora dissero proprio a Gesù: Signore, noi abbiamo trovato questa donna in flagrante adulterio, ora la legge di Mosè dice che deve essere lapidata, e tu che dici? Che ha detto Gesù? Vi ricordate? Non ho capito quel che ho detto, ma ho detto lo stesso no. Che cosa disse Gesù? Si mise a scrivere per terra nella sabbia. Non alzò nemmeno la testa, stava scrivendo nella sabbia. E io per me lo so quello che stava scrivendo. Gesù stava scrivendo i peccati di tutte le persone che erano lì presenti. E quando aveva finito di scrivere tutti i peccati delle persone, ha detto la fatidica frase: ora chi di voi e senza peccato scagli per primo la pietra. Che cosa è successo? Mo lo sapete bene. Se ne andarono. Perché Gesù, mentre aveva detto questa frase, che cosa aveva fatto? Vi ricordate la storia? Andate a leggere, perché è molto bella, è piena di opportunità per noi. Ha continuato a scrivere, e io so anche che cosa ha scritto. Ha cancellato tutti quei peccati e ha scritto sopra con grandi lettere: grazia. Ma quando ha alzato gli occhi per offrire la sua grazia, che cosa è successo? Non c'era nessuno. Quelle persone non hanno afferrato l'opportunità. Lì proprio dovevano rimanere, allora dovevano rimanere, perché Gesù gli stava per dare la grande opportunità della salvezza. La donna l'aveva capito, non è andata via, la donna l'aveva capito. Aveva capito bene, dice: io di qua non mi muovo. E infatti quando Gesù alzò il capo e guardò, vide solo la donna e disse: donna, dove sono i tuoi accusatori? Dice: rapiti. Ti hanno condannato? E allora nemmeno io ti condanno. L'opportunità di Dio. Però Dio non si ferma a darci solo l'opportunità. Ci mostra anche come allenarci. Perché se lui ci dicesse: perdonato, ok, perdonato, vabbè, sono perdonato. Ma che cosa ha detto poi alla donna come via di soluzione? La vera opportunità per quella donna, qual era? Va e non peccare più. È come che Gesù avesse detto: io la mia parte l'ho fatta, ti ho perdonato completamente. Ora fai la tua. Questa è la vera opportunità, questa è la via che il Signore dà. Siccome ho molti esempi, non mi posso prolungare su ogni situazione, però per piacere andatela a leggere, perché il mio più grande obiettivo è farvi innamorare di questi personaggi. E quando andate a leggere la Bibbia e trovate un personaggio, domandatevi che opportunità il Signore ha dato a questa persona e che sta dando anche a me. Questo è l'obiettivo primario. Perciò, vedete, Gesù dà a ognuno di noi una nuova opportunità, qualsiasi cosa noi stiamo vivendo, anche la più strane. Ci sono altri esempi che sono belli, io lo voglio fare velocemente. Perché? Perché sono situazioni diverse e sono anche soluzioni diverse e anche vie o promesse diverse che noi possiamo afferrare. L'altro, cioè, ditemi voi, può mancare l'esempio di Pietro quando prendiamo personaggi della Bibbia? È impossibile. Perché? Perché Pietro è ognuno di noi. Perché Pietro ha vissuto come proprio noi viviamo ogni situazione. E Pietro, nell'Evangelo di Luca, al capitolo 22, c'è la storia che... Gesù viene arrestato, viene portato in un cortile e viene battuto, e lì alcuni discepoli lo seguono, e fra questi c'è anche Pietro. Pietro che lo ha seguito sempre, Pietro che ha abbandonato ogni cosa per seguire Gesù, ha abbandonato le reti, ha abbandonato la barca, ha abbandonato in un qualche modo, lì uno può dire... si è liberato, ha abbandonato anche la famiglia, la suocera che stava malata, e dice, ma lì ha abbandonato realmente ogni cosa. Ma non aveva lasciato a Gesù alcuno dei suoi sentimenti, non aveva lasciato il senso di vergogna, e non aveva lasciato nelle mani di Gesù che cosa dirà l'altro. Questi sono stati dei lacci per Pietro, per farlo cadere. Infatti, nella storia, in Luca, al capitolo 22, dal verso 31, leggendo questa storia, che cosa viene fuori? Viene fuori che a un certo punto quello che Gesù gli aveva profetizzato, il gallo canterà, prima che il gallo canterà mi avrai tradito tre volte, e tutto questo accade, e poi ma accade anche questo fatto. Ascoltate questo fatto, che non sempre noi andiamo a prendere questi aspetti così forti. Nel capitolo 22, dal verso 31 è scritta la storia. Ma quando Pietro ha tradito Gesù e ha detto, vi ricordate, no, non lo conosco, non l'ho mai, anzi ha incominciato pure a bestemmiare e a dire parolacce per far vedere che apparteneva agli altri, a imprecare, il modo italiano per dire parolacce, anche noi come credenti non diciamo parolacce, noi imprechiamo. Ma attenta alle imprecazioni, perché dietro forse c'è qualche altra cosa, va bene? A quel punto, che cosa è successo? Nel verso 61, ascoltate, è incredibile. E il Signore, voltatosi, guardò Pietro, e Pietro si ricordò che il Signore gli aveva detto, oggi prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte. È andato fuori, pianse amaramente. Come incontrò Gesù? Come incontrò Pietro Gesù? Attraverso che cosa? L'abbiamo letto. uno sguardo. Cioè praticamente Gesù lo ha guardato e Pietro ha capito. Quante volte hai sentito lo sguardo di Gesù addosso? In quella situazione o in quell'altra? Come si ha lo sguardo di Gesù? Si ha, io non te lo so, io te lo so spiegare, anche se te lo spiego per quando lo ricevo, non è come lo ricevi tu lo sguardo, ma uno sguardo ti parla e ti dice quello. Infatti, con quello sguardo, Pietro ha capito esattamente quello che doveva. Quella era l'opportunità che Gesù gli dava, una grande opportunità. Infatti, che cosa ha fatto? È andato fuori e ha pianto amaramente, è scritto, cioè si è pentito di quello che ha fatto. E si è pentito, e sì che si è pentito, perché giorni dopo, se vi ricordate, quando le persone li ingiuriavano e li prendevano in giro, chi è che si è alzato su una cassetta della frutta e si è messa a predicare? Pietro. È lui che non si è vergognato più, è lui che non ha badato più che cosa dirà l'altro di me. Quando noi viviamo questi sentimenti, ricordiamoci che dietro c'è il tradimento, all'angolo anzi, c'è il tradimento. C'è il tradimento. Perciò valutiamo quando viviamo sentimenti di vergogna, quando viviamo sentimenti che dirà l'altro, ma piuttosto che dirà Gesù di me. Quello è quello di cui ci dobbiamo preoccupare. E quindi Gesù ha dato la soluzione semplicemente con uno sguardo. È l'opportunità che Pietro ha avuto tramite uno sguardo, l'ha afferrata, non l'ha fatta passare. Qui questo è importante per noi. In qualsiasi maniera il Signore si avvicina a te, si appressa a te, in quella o in quell'altra situazione, e tu avverti che è il Signore che ti sta parlando, che ti sta guardando, che ti sta toccando, afferra l'opportunità. Perché quella è la salvezza, quella è la soluzione. Un'altra storia, questa storia invece riguarda una delle più belle chiese del Nuovo Testamento, la chiesa in Efeso, che è scritto anche un... sto per terminare. Siccome le storie vanno avanti, ce ne sono tante, però capisco che... La chiesa di Efeso è scritto in Apocalisse al capitolo 2, vi ricordate? Non l'andiamo nemmeno a leggere, poi ve l'andate a leggere voi perché è molto bella. Lì allora l'angelo della chiesa di Efeso è scritto, scrivi, dice, è quello che cos'è. Io conosco le tue opere alla chiesa. So la sofferenza, so la tua fedeltà, so quando ti sei affaticato, ma una cosa. E qual era quella cosa? Hai perso il primo amore. Hai perso il primo amore. Quando avverti che vivi religiosamente per abitudini, per forza d'inerzia, perché così va la vita, fermati. Perché quello vuol dire semplicemente che il primo amore si è affievolito. E se viene a mancare il primo amore, il Signore non può riversare il suo amore. E infatti che cosa ha detto? Qual era la soluzione alla chiesa di Efeso? Vi ricordate? Ricordati. E fai le opere di prima, niente di eclatante, niente di preghiere, chi lo sa, o di non lo so, niente, semplicemente ricordati quello che fai, incomincia a fare di nuovo quello di prima, niente di più. Questa era la risposta del Signore alla Chiesa, questa era la risposta di Dio alla Chiesa. E ci sono altre, e questo vale anche per noi, afferriamo questo esempio. E possiamo fare l'esempio del figlio il prodigo. Vi ricordate? Il figlio il prodigo si è ricordato si è ricordato. Noi siamo sempre smemorati, ma qualche volta accade un flash. Quella è l'opportunità di Dio, afferralo. Lui l'ha afferrato. Il giovane ricco va, vendi tutto. Che cosa doveva vendere? Semplicemente dobbiamo vendere quello a cui siamo legati, anzi il legame che noi abbiamo, ciò che ci domina. E questa è l'opportunità che Dio ci dà in ogni situazione. Ora io voglio terminare semplicemente rileggendo quel passo, lo leggiamo insieme, lo possiamo rivedere tutti quanti insieme proiettato il primo passo e qui leggerlo in una chiave diversa. È scritto: è una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti. Le sue compassioni infatti non sono esaurite, si rinnovano ogni mattina. Grande è la tua fedeltà, il Signore è la mia parte. Io dico, perciò spererò in Lui. Il Signore è buono con quelli che sperano in Lui, con chi lo cerca. È bene aspettare in silenzio la salvezza del Signore. Cosa stai vivendo in questo periodo, in questo tempo? E sto parlando soprattutto a quelle persone che vivono semmai, che so io, delusione, non speranza, stanchezza, che vivono scoraggiamento. E che vivono tante di quelle cose che li portano a dubitare. Allora io dico, afferra l'opportunità di Dio. Forse solo uno di questi esempi, e ce ne sono a centinaia nella parola di Dio, in cui ti sei identificato, ti ha parlato. Allora afferralo, non fare passare l'opportunità che Dio ti sta dando anche questa sera, che Dio ci sta dando a tutti noi anche questa sera, perché lì il Signore opera e in quello che noi afferriamo, quello possiamo realizzare e vincere tutte le nostre situazioni, nessuna esclusa, perché altrimenti noi diciamo che il Signore non è in grado di risolvere questo o quell'altro. Il Signore è in grado di risolvere ogni cosa. Afferra l'opportunità di Dio. Amen. Vogliamo alzarci in piedi. Signore Gesù, io voglio tanto, tanto ringraziarti per quello che la Tua parola offre a tutti quanti noi, come modello, come esempio, ma anche come direttive per realizzare la Tua volontà. Signore, noi abbiamo scelto Te e noi vogliamo seguire Te e noi vogliamo servire Te. Grazie, grazie per le mille opportunità che ci dai anche questa sera. Nel Tuo nome, Gesù. Amen.